Buongiorno a tutti, siamo al Salone Nautico di Genova che ha aperto i battenti sabato scorso. Siamo negli studi di Radio 24 all'interno dello stand Locat Leasing e Fineco Leasing e abbiamo qui con noi Andrea Stella. Molti di voi lo conosceranno già per la storia che ha da raccontare e per la sua scuola di vela per ragazzi diversamente abili. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Andrea, sei di nuovo a Genova, ti abbiamo visto qui nel luglio scorso in occasione della regata del Tall Ships quando ci hai proposto la tua scuola di vela gratuita per ragazzi disabili. Ci racconti questa iniziativa? Certamente, la scuola di vela gratuita per ragazzi disabili è un'iniziativa che va avanti ormai da 3 anni e è un'iniziativa che è rivolta a persone disabili dalla nascita o che lo sono diventate in seguito a un incidente e alle quali diamo la possibilità di vivere il mare liberamente per una giornata. Ecco, come reagiscono, come si comportano i ragazzi che hanno subito un trauma? Qual è la loro reazione davanti alla possibilità di trascorrere una giornata in maniera così libera? Ma io mi rifaccio alla mia esperienza quando sono tornato a navigare dopo l'incidente su questo catamarano e ho deciso di farlo, e ho deciso prima di costruirlo e poi di navigarci perché mi sento libero di potermi muovere, di poter fare le stesse cose che facevo prima. Quindi i ragazzi accettano e decidono di partecipare a questa esperienza perché seppure su una sedia a rotelle possono all'interno di questa imbarcazione fare qualsiasi cosa, quindi sono completamente liberi. Ecco, tu sei qui non solo per questa iniziativa ma anche per presentare il tuo libro che ha già riscosso molto successo perché hai vinto il premio Bancarella Sport. Cosa racconti nel tuo libro? Nel libro, che si chiama Due ruote sull'oceano ed è edito da Longanesi, racconto la mia vicenda dalla laurea, l'incidente in America e poi la costruzione, il difficile periodo della riabilitazione, il periodo poi di ritornare a fare le cose che facevo prima, quindi a viaggiare, andare in barca a vela, la ricerca di una barca accessibile e poi constatata l'impossibilità di trovare questa barca esistente, la possibilità familiare di costruire questo catamarano e con questo catamarano poi voler raccontare delle cose e voler tornare in America alla fine del 2004. Allora, tu hai fatto cenno in questa risposta a un incidente che è avvenuto negli Stati Uniti. Facciamo un passo indietro e lo raccontiamo ai nostri ascoltatori. Certamente, io ho 31 anni, 7 anni fa mi sono laureato, sono andato in vacanza in Florida, a Fort Lauderdale, e una sera dovevo uscire a bere una birra con dei ragazzi della scuola d'inglese che frequentavo e ritornando all'auto presa in affitto in una strada privata molto vigilata e molto sicura apparentemente ho trovato 3 persone mascherate e una di queste senza dirmi nulla o senza chiedermi le chiavi dell'auto mi ha sparato. Per questo ho rischiato prima di morire perché è stata una ferita molto profonda al fegato e al polmone, poi sono guarito per questo, ma una delle 2 pallottole aveva leso la colonna vertebrale, quindi mi sono svegliato e mi ha detto tu non camminerai più. Questo incidente ha però aperto una nuova vita ad Andrea, tutta votata poi alle persone che soffrono. Il suo primo pensiero è stato il mare. Dopo un corso di rieducazione ha trovato una barca in grado di accogliere una persona sulla sedia a rotelle e non solo, di permettere anche un movimento naturale all'interno degli spazi. Da qui è venuta l'idea di costruire in Italia un catamarano completamente accessibile alle persone diversamente abili. Quali sono le particolarità del tuo catamarano che si chiama Team Progetto Italia allo spirito di Stella? Il catamarano è il primo catamarano al mondo completamente accessibile, cioè privo di barriere architettoniche. È stato costruito nel cantiere Mattia Cecco sul lago di Como ad Ervio e le particolarità sono quelle di essere una barca fondamentalmente normale, però con degli spazi in grado di permettere alla sedia a rotelle di passare, di muoversi, di ruotare. È costituito da 4 cabine doppie, 4 bagni, 2 posti equipaggio e 1/5 bagno di servizio per l'equipaggio. 2 di queste cabine sono completamente accessibili. Costruendo questo catamarano, che è nato inizialmente per le mie vacanze, quindi per il mio piacere, ci rendevamo conto che questo catamarano aveva delle qualità addirittura migliorative rispetto all'imbarcazione standard da cui noi eravamo partiti. Non avevamo perso degli spazi, ma anzi ne avevamo guadagnati e anche a livello estetico i risultati sembravano molto buoni. Quindi mi nasceva l'idea di dire ma come siamo così abituati a vedere delle cose fatte per persone disabili che normalmente sono brutte, sono molto sanitarie, molto ospedalizzate e occupano spazi molto grandi. ci rendevamo conto che invece su questa barca io, ma tante altre persone, avremmo potuto fare qualsiasi cosa. E nella progettazione non avevamo abusato dello spazio, l'avevamo razionalizzato, non avevamo perso cabine, quindi posti letto, ma anzi avevamo guadagnato qualcosa, questo famoso quinto bagno. E quindi c'è nata la grande voglia di raccontare questo messaggio per portarlo poi alla vita di tutti i giorni, quindi al vivere quotidiano. Ecco, torniamo un secondo alla tua storia. Una volta approntato il catamarano, tu hai deciso di tornare proprio a Miami, il luogo del tuo incidente. Perché? Ho deciso di tornare a Miami per diversi motivi. Uno un po' personale, era chiudere un cerchio col destino, quindi me ne ero arrivato a Miami laureato, me ne ero andato in carrozzina per un incidente di cui non avevo nessuna colpa, e poi però volevo tornarci con questo messaggio positivo, perché comunque nella grande sfortuna che ho avuto anche la fortuna di trovare un chirurgo e un'equipe medica che mi ha letteralmente salvato la vita, quindi è una forma di riconoscenza verso queste persone. Un altro motivo che mi ha spinto a farlo è stato quello di essere velista sia prima che dopo l'incidente, quindi il grande sogno di tanti velisti è quello di attraversare l'Atlantico. E poi la motivazione, credo, più importante, soprattutto che ha un significato maggiore e più generale, è quella di dire: beh, se una persona disabile insieme alle altre persone può attraversare l'oceano con una barca a vela, non è possibile che non possa attraversare Milano o Roma con la stessa facilità con un mezzo pubblico, con un autobus. Ecco, entriamo in questo modo in un altro argomento. La barca, secondo te, e anche secondo molte persone anche illustri che hanno visitato il tuo catamarano, deve essere un esempio per costruire le città. Tu trovi che negli ultimi anni siano stati fatti dei passi in avanti in questo, e in che cosa secondo te si dovrebbe iniziare ad agire? Sicuramente io sono disabile da solo 7 anni, quindi conosco persone invece che vivono questa situazione da molto più tempo, e quindi in parte mi baso sui loro racconti. Loro mi dicono che sicuramente negli ultimi 18 anni, quindi dalla legge 13 dell'89 che ha sancito l'eliminazione delle barriere architettoniche, molte cose sono state fatte. Sicuramente è un cammino comunque lungo e ancora c'è da fare parecchio. Io credo che sia un percorso culturale che altri paesi hanno già realizzato. Cito ad esempio l'America, che ovviamente per me non è un bel posto, ma da questo punto di vista l'America ha tanto da insegnarci. È anche vero però che in America il processo è cominciato con un presidente che si chiamava Roosevelt, che era poliomielitico, quindi su una sedia a rotelle. Credo, per concludere, che molte cose siano state fatte, ma moltissime se ne possano fare, e se ne possano fare con maggior consapevolezza, maggior senso del risparmio in termini di spazio, in termini anche di ricerca di soluzioni più semplici dal punto di vista tecnico ed economico. Ecco, mi facevi qualche esempio, ad esempio le predelline degli autobus o i bagni all'interno dei locali. Quali problemi si incontrano proprio nella vita quotidiana? Magari le persone non sanno, non ci si pensa. Nella vita quotidiana i problemi sono tantissimi. Io sono stato in Inghilterra alcuni anni fa e al supermercato ho visto 3 ragazzi in carrozzina e 12 signore anziane con gli scooter a 4 ruote che facevano la spesa. La mia prima sensazione è stata quella che ci fossero molti più disabili in Inghilterra che in Italia. In realtà questo non è vero, soltanto che in certi posti, in certi paesi, non essendoci così tante barriere, le persone si muovono, escono. Obiettivamente, andare in un ristorante e non sapere mai se si può andare in bagno, utilizzare il bagno o no, o doversi sempre informare sull'utilizzo o meno del bagno piuttosto che su cosa si mangia o quanto si spende, è molto limitativo e quindi non invita le persone in questo senso ad uscire. I mezzi pubblici alcuni sono accessibili, però la soluzione adottata con queste pedane elettroidrauliche, quelle poche volte che vengono utilizzate queste pedane, che sono molto costose e di difficile manutenzione, poi non vanno. Quindi io mi sono trovato a vivere esperienze catastrofiche perché l'autobus si rompeva, perché l'autista non sapeva usare la pedana e per tanti motivi. Ci sono degli esempi, rimanendo negli autobus, molto più semplici, che si potrebbero tranquillamente importare e copiare. Anche qui cito gli Stati Uniti, ma le città del nord Europa si comportano allo stesso modo, in cui la pedana elettroidraulica italiana, che costa 25.000 euro e che non funziona, è sostituita con una pedana meccanica che costa 250 euro e funziona sempre. Chi ti ha accompagnato in questa avventura? Ovvero, hai trovato degli appoggi, dei sostegni che ti hanno permesso di concretizzare questo sogno? Beh, sicuramente innanzitutto devo dire che io sono una persona fortunata perché ha delle possibilità economiche, ho trovato un padre che ha sposato questo progetto e quindi ho avuto la possibilità di non pormi dei problemi economici e costruire questa imbarcazione. Una volta fatta la barca, l'urgenza, la voglia di raccontare questo messaggio e di cominciare anche un percorso a favore di altre persone come la scuola vela, non sarebbe stato possibile sostenerlo da solo se non avessi avuto la fortuna di trovare l'appoggio di alcune realtà come Telecom Progetto Italia, che hanno capito il progetto, hanno capito la valenza del messaggio e hanno deciso di appoggiare questa iniziativa e di sostenere i costi che sennò per un privato non sarebbero assolutamente possibili. State pensando di allargare questa iniziativa, ovvero di coinvolgere anche partner istituzionali in modo tale da farla arrivare proprio a tutti, quindi spingere tutte le persone a svegliarsi in questo senso, a provare un'esperienza come quella che tu proponi? Sì, siamo partiti dalla barca, ma la barca è un simbolo, è un messaggio, serve a capire che se si può rendere accessibile una barca, si può a maggior ragione rendere accessibile una casa, una città, però la voglia è quella proprio di continuare con questi progetti che incidano sempre di più sul vissuto, sul quotidiano, e quindi si cerca un confronto con varie istituzioni. Ultimamente, oltre ai partner privati, quindi a Telecom Progetto Italia, Unicredito, abbiamo dei partner che ci sono vicino come la Regione Lazio, e proprio ultimamente abbiamo un grosso appoggio della Marina Militare Italiana, che ha all'interno una propria associazione che si chiama ANAFIM, associazione che si occupa dei figli disabili dei dipendenti o ex dipendenti delle forze armate. Ecco, con questa ANAFIM a Ostia, nelle settimane di scuola vela di Ostia, abbiamo dato la possibilità a diversi ragazzi di vivere questa esperienza, e con la Marina Militare sicuramente abbiamo intenzione di portare avanti alcuni progetti nel campo navale, ma poi anche nel campo civile. Ecco, passiamo a una domanda più personale. Qual è il momento più emozionante per te in una regata? Ma quando si vince in una regata sicuramente, però io non, con questa barca le regate che facciamo sono molto limitate, però abbiamo partecipato a una regata atlantica durante il viaggio di ritorno a Miami e è stata emozionante dall'inizio alla fine, perché avevamo uno skipper come Mauro Pellaschier che ci ha in maniera simpatica frustato dall'inizio alla fine, cioè ha trattato me e Omar, l'altro ragazzo disabile, assolutamente alla pari di tutto il resto dell'equipaggio. È stata una regata vissuta con grande competizione, difatti siamo arrivati primi dei catamarani e quarti assoluti dopo 19 giorni di navigazione. I momenti sono tanti, sono tantissimi anche i momenti di sconforto, perché in mare sei legato ai venti che non riesci a controllare, quindi l'assenza di vento diventa un momento terribile, quanto il temporale violentissimo. E l'assenza di vento è forse ancora peggio, perché sai che magari gli avversari trovano vento buono e stanno navigando e tu sei fermo. Ecco, immagino che durante una regata ci siano anche momenti di grande convivialità. Qual è lo spirito di corpo che si sprigiona dal passare così tanto tempo insieme in uno spazio che comunque, nonostante tutti gli accorgimenti, rimane ristretto? Ma è un'esperienza intensa, perché fare 19 giorni in Atlantico in 8 persone in un catamarano grande, se vogliamo, perché è lungo 17 metri e mezzo, ma comunque pur sempre piccolo rispetto a spazi a cui siamo abituati, presuppone che deve esserci un gruppo molto unito, molto affiatato. Noi per fortuna lo siamo stati. Presuppone che debba esserci una persona comunque che dirige e comanda questo gruppo, se no in barca le forme di grande democrazia funzionano fino a un certo punto. Serve una persona che prenda delle decisioni rapidissime, velocissime, molto ferme, senza possibilità di discussione. Però è un ambiente che ti chiede molto e nello stesso tempo ti dà molto. Fare l'Atlantico in questo modo, quindi riuscire a stare insieme tutti i giorni, tutte le ore del giorno con altre 7 persone e riuscire a lavorarci insieme, perché di un lavoro si è trattato, non è semplice, ma ti forma molto. Ecco, qual è la qualità di uno skipper che tu apprezzi di più? Cioè, volendo diventare un esperto di regate, come vorresti diventare? Io mi accontento di essere quello che sono, e quindi cerco di portare avanti come posso questo messaggio dalla barca, nelle città. Poi l'imbarcazione in questa scuola vela che facciamo è governata da due persone che sono Maurizio Cocco e Diego Trevisi, e loro si danno l'anima per cercare di dare, appunto, di far vivere una bella giornata a persone che vivono una situazione di difficoltà e cercare di dargli la massima disponibilità nel spiegargli sì quali sono le manovre veliche, ma soprattutto nel cercare di creare un clima sereno e positivo. Quindi da una parte apprezzo molto la professionalità negli skipper, però credo che la componente umana sia imprescindibile soprattutto nel lavoro che facciamo noi. Ecco, un'ultimissima domanda: il mare per te vuol dire cosa? Il mare per me vuol dire libertà. Vuol dire libertà, sembra forse una cosa anche banale, però il mare vissuto su Team Progetto Italia, lo spirito di Stella, dove io in sedia a rotelle posso andare in cabina, andare al timone, muovermi, salire e scendere da solo, raggiungere con un seggiolino la prua, questa è libertà. Grazie ad Andrea Stella per questa preziosa testimonianza, a risentirci su Radio 24. Grazie a tutti, buona giornata.